Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. Cari ascoltatori, un saluto a tutti voi che siete in ascolto. Eccoci al nostro appuntamento mensile sulla parola di Dio. In questa nostra puntata della tua parola mi fa vivere, continueremo la lettura degli Atti degli Apostoli. Siamo arrivati al capitolo 2 degli Atti degli Apostoli e questa sera ci soffermeremo su un brano relativamente breve. Si tratta di 5 versetti, 6 versetti, attorno ai quali però si sono costruite lungo i secoli non solo intere comunità religiose, ma anche intere comunità cristiane. La pagina, infatti, su cui noi sosteremo è la pagina che è considerata un po' come la fotografia ideale della prima comunità cristiana in cui da sempre i credenti trovano un punto di riferimento. Allora, fin dall'inizio di questa nostra trasmissione chiediamo l'aiuto dello Spirito Santo perché ci aiuti a non guastare la bellezza dei versetti su cui sosteremo insieme. E chiedo anche a qualcuno delle persone che sono in ascolto di offrire proprio parte delle loro preghiere, delle loro sofferenze per l'efficacia di questo nostro momento di formazione e di condivisione. Voi sapete, quest'ora e mezza che trascorriamo insieme è uno spazio in cui chiediamo al Signore di non parlare solo alla nostra mente, ma di plasmare la nostra vita, di portare una parola di luce, di speranza, di consolazione, perché il nostro cammino personale ed ecclesiale possa ritrovare slancio a partire proprio dalla parola che condivideremo. Quanti di voi ne hanno la possibilità, chiedo di prendere in mano un'edizione della Bibbia e di aprirla proprio al capitolo 2 degli Atti degli Apostoli. Ma leggiamo subito il testo. I versetti su cui ci soffermiamo sono i versetti dal 42 al 47. Ascoltiamo cosa ci dice Luca in questo tratto degli Atti degli Apostoli. I primi credenti erano perseveranti nell'insegnamento degli Apostoli e nella comunione, nello spezzare il pane e nelle preghiere. Un senso di timore era tra tutti, e prodigi e segni avvenivano per opera degli Apostoli. Tutti i credenti stavano insieme e avevano ogni cosa in comune. Vendevano le loro proprietà e sostanze e le dividevano con tutti, secondo il bisogno di ciascuno. Ogni giorno erano perseveranti insieme nel Tempio e, spezzando il pane nelle case, prendevano cibo con letizia e semplicità di cuore, lodando Dio e godendo il favore di tutto il popolo. Intanto il Signore ogni giorno aggiungeva alla comunità quelli che erano salvati. Allora, a partire da questi versetti noi ci vogliamo soffermare su quelli che sono i pilastri dell'esperienza ecclesiale della prima ora, cioè dell'esperienza della prima comunità cristiana. Come dicevo, questo brano è considerato proprio come il modello ideale che Luca descrive della comunità delle origini. Dobbiamo però tenere presente una cosa. Quando Luca descrive la prima comunità cristiana, non è che sta prendendo appunti su quello che lui vede. Lui scrive questo resoconto attorno più o meno all'80-85 d.C. Siamo quasi 50 anni dopo che la situazione che è stata descritta è avvenuta, quindi c'è come un arco di tempo di 50 anni che sono passati e la situazione ecclesiale che Luca vive è molto diversa. Noi lo capiamo dagli Atti degli Apostoli, lo capiamo dalle lettere di Paolo, dove riusciamo a cogliere gli scorci di comunità cristiane che si trovano in difficoltà proprio su questi quattro aspetti. aspetti, proprio sugli aspetti che fanno da fondamento alla comunità cristiana. Quindi quello che Luca descrive non è una fotografia del reale che lui sta vivendo, ma una fotografia in cui vengono enfatizzati, sottolineati alcuni aspetti perché la comunità in difficoltà non abbia a dimenticare le sue radici. L'elemento della memoria è fondamentale anche per la prima comunità cristiana, perché subito dopo un po' di tempo che segnato dallo slancio, dall'entusiasmo, dalla presenza stessa degli apostoli, man mano questi vengono meno, man mano ci si allontana dalle origini, il rischio anche per i credenti della prima ora è quello di smarrire il senso delle cose. Ecco allora l'importanza di riportare al centro quelli che sono i pilastri della prima ora, i pilastri attorno a cui si è costruita la prima comunità cristiana. E questa pagina, tra l'altro, è stata profondamente idealizzata dai fondatori della vita cenobitica, la vita cenobitica, cioè le prime comunità di consacrati. Pensate che figure come Pacomio, San Basilio, Agostino, chi nell'Oriente e chi nell'Occidente, hanno trovato in questa pagina il modello da proporre alle loro comunità di consacrati per costruire attorno a questi versetti la regola fondativa delle loro comunità. Ovviamente però Luca ci tiene a precisare che quello che lui descrive in questi versetti non è qualcosa che vale solo per chi fa una scelta di vita radicale, è qualcosa che interpella tutti i cristiani. Bene, per approfondire quanto emerge da questi cinque versetti, penso sia utile per seguire meglio la conversazione immaginarci davanti a una tavolozza di colori. Ora, per costruire un quadro noi abbiamo bisogno di almeno quattro colori fondamentali. Sostanzialmente sono i colori fondamentali sono il giallo, il rosso e il blu. Insieme a questi poi c'è la sintesi di tutti i colori che in genere viene identificata con il bianco. Bene, mescolando questi colori fondamentali noi possiamo fare i grandi dipinti, però abbiamo bisogno di questi quattro colori fondamentali. Bene, questi quattro colori fondamentali possono essere individuati come i quattro pilastri della prima comunità cristiana, attorno ai quali poi si è costruito tutto. Il giallo lo possiamo far corrispondere alla coinonia, cioè all'esperienza della comunione, della condivisione. Il rosso lo possiamo far combaciare con la fractio panis, l'eucarestia, che viene evidenziata, un senso di timore era fra tutti e si ritrovavano nello spezzare il pane, ogni giorno, dice il testo. Il colore blu possiamo identificarlo con la preghiera e infine il bianco, l'elemento che racchiude tutti questi elementi e che in fondo è già inserito nella coinonia, è già inserito nella preghiera e nella frazione del pane, è la didache, cioè l'insegnamento che viene dagli apostoli, che raccoglie effettivamente tutti gli altri inviti, l'invito alla coinonia, l'invito alla fractio panis e l'invito alla preghiera. Vediamoli un po' distinti questi elementi. Primo elemento è l'elemento della comunione. Il fatto che le prime comunità cristiane vivano un'esperienza di comunione emerge in modo molto chiaro perché questi cinque versetti verranno ripresi più avanti, esattamente nel capitolo 4, sottolineando che tutti i credenti erano un cuor solo e un'anima sola. Sentite cosa scrive Luca nel capitolo 4 degli Atti degli Apostoli. La moltitudine di coloro che erano diventati credenti aveva un cuor solo e un'anima sola, e nessuno considerava sua proprietà quello che gli apparteneva, ma fra loro tutto era comune. Con grande forza gli apostoli davano testimonianza della risurrezione del Signore Gesù e tutti godevano di grande favore. Nessuno tra loro era bisognoso, perché quanti possedevano campi o case li vendevano, portavano il ricavato di ciò che era stato venduto e lo deponevano ai piedi degli apostoli. Poi veniva distribuito a ciascuno secondo il suo bisogno. Detto in altre parole, nella comunità delle origini la coinonia si esprime in un'attenzione a coloro che sono più poveri, dove l'obiettivo è quello di non far mancare il necessario a nessuno, cioè in una società come quella del primo secolo, dove tutto era costruito sulla stratigrafia sociale, per cui ognuno valeva nella misura in cui occupava un posto sociale all'interno della comunità cristiana, si stava attenti, si vigilava perché qualcuno non venisse umiliato dall'assenza di ciò che era necessario. In Cristo, lo ribadirà più volte Paolo nelle sue lettere, non c'è più giudeo né greco, schiavo, libero, uomo o donna, ma tutti sono uno in Cristo tutti hanno la medesima dignità, e questa medesima dignità doveva avere anche un aspetto, come dire, esteriore, dove tutti dovevano avere il necessario per vivere una vita dignitosa. Ecco allora che coloro che possedevano di più mettevano a disposizione i loro beni perché venissero distribuiti a chi aveva meno. E perché questa immagine non restasse troppo ideale, Luca tiene a concretizzarla in una figura ben precisa. Infatti, dopo aver descritto l'elemento della coinonia nella comunità, tiene a precisare e ad aggiungere questo. Così Giuseppe, soprannominato dagli apostoli Barnaba, che significa figlio dell'esortazione, un levita originario di Cipro, padrone di un campo, lo vendette e consegnò il ricavato deponendolo ai piedi degli apostoli. Ecco, notate questo aspetto, no? Luca ci tiene a sottolineare che questa immagine che si basa sulla corrispondenza, sulla coinonia tra un gruppo e un altro a livello ecclesiale, trova la sua concretezza anche in figure molto concrete, in carne ed ossa, cioè non è solo un qualcosa di astratto che viene proposto alla comunità. Tutto questo si concretizza in figure concrete che hanno il coraggio di vendere quello che hanno, dandolo a chi nella comunità non ha lo stretto necessario per vivere. Interessante anche la scelta dell'edificio, perché la coinonia non si esprime solo nel fatto che si sta attenti ai poveri, perché nessuno venga a mancare di ciò che rende la sua vita dignitosa, ma si esprime anche nel luogo che viene scelto dai credenti della prima ora. Ogni giorno, dice il testo, erano perseveranti insieme nel Tempio, ma spezzavano il pane nelle case. Quindi ci sono come due momenti, c'è il momento liturgico del Tempio, che è quello che la comunità cristiana eredita da Israele, però poi c'è un secondo momento che avviene nelle case. Ecco, questo nuovo edificio, che è quello dell'ecclesia domestica, è un edificio che darà molto valore all'elemento della coinonia, perché chi è che sta in casa? In casa stanno i familiari, in casa stanno le persone a cui noi siamo più legati. Il fatto che la comunità cristiana si ritrovi all'interno delle case, e lo preciserà poi l'Evangelista Luca, attorno alla mensa, ecco, tutto questo stabilisce come la coinonia sia un fatto reale, costruito come fondamento della prima comunità. Vi dicevo però prima che quando Luca scrive queste cose non è che nelle comunità tutto questo era vissuto in modo lineare, tranquillo, e lo scopriamo anche da alcuni passaggi delle lettere di Paolo. Prendiamo ad esempio la prima lettera ai Corinzi. Se voi prendete la prima lettera ai Corinzi al capitolo primo, fin dal versetto 10 Paolo si trova a dover affrontare quello che è il problema scottante della comunità. La comunità di Corinto vive il dramma della divisione. Leggo solo quattro versetti, versetti dal 10 al 13 del capitolo 1, dove Paolo dice: «Vi esorto, fratelli, per il nome del nostro Signore Gesù Cristo, a essere tutti unanimi nel parlare, perché non vi siano divisioni tra voi, ma siate in perfetta unione di pensiero e di sentire. Notate come, questo è solo il primo versetto, in questo versetto per tre volte Paolo esorta la comunione. Unanimi nel parlare, non vi siano divisioni tra voi, siate in perfetta unione di pensiero e di sentire. Poi continua. Infatti a vostro riguardo, fratelli, mi è stato segnalato dai familiari di Chloe che tra voi vi sono discordie. Mi riferisco al fatto che ciascuno di voi dice: io sono di Paolo, io sono di Apollo, io sono di Cefa e io di Cristo. È forse diviso il Cristo? Forse Paolo è stato crocifisso per voi? O siete stati battezzati nel nome di Paolo? Ecco, la sottolineatura di Paolo qua è forte. A Corinto cos'era successo? Probabilmente stava nascendo la prima comunità cristiana, le comunità si ritrovavano nelle case e tutta la comunità non può stare in una casa sola. Probabilmente erano quattro le dimore, probabilmente di persone nobili, in cui la comunità si ritrovava, e ognuna di queste dimore alla fine finisce per avere un punto di riferimento diverso. Chi sottolineava di più l'insegnamento di Paolo, chi di Apollo, che era un grande predicatore, molto avvincente dal punto di vista della parola, magari quelli di Apollo era un po' la chiesa più acculturata, poi c'erano i discepoli di Cefa, Cefa sta per Pietro, e poi quelli che dicevano: no, noi siamo di Cristo, non c'è né uno né l'altro. E Paolo riporta la cosa all'essenziale, dice: ma che cos'è questa divisione? È vero che la comunità si riunisce in quattro luoghi diversi, ma tra questi quattro luoghi ci deve essere un tessuto unitario. Non è che c'è l'elite di chi ha fatto il dottorato, cioè quelli di Apollo, e l'elite dei poveri pescatori o contadini come la chiesa di Cefa. No, no, non ci sta. In Cristo siamo uno e bisogna imparare ad accoglierci e a, come dire, arricchirci grazie alla differenza dell'altro. Ecco allora la sottolineatura di Paolo alla comunità di Corinto. Ora, Luca, che scrive 20 anni dopo che Paolo ha scritto la prima lettera ai Corinzi, si trova di fronte allo stesso problema. La comunità delle origini rischia, la comunità a cui lui si rivolge, rischia di essere divisa. Ecco allora che la riporta alla comunità delle origini, dove le divisioni sono state superate grazie all'unico riferimento con Cristo. Ecco, sostiamo un attimo, facciamo un breve stacco musicale in cui ripercorriamo questi 5 versetti, quindi Atti 2, 42 e 47, vi chiederei di rileggerlo, prima di passare al secondo colore della comunità cristiana, vale a dire il rosso della frazione del pane, un breve stacco musicale. Allora, l'elemento della comunione si esprime in modo particolare nel momento in cui la prima comunità si ritrova attorno alla mensa e fa memoria di quel gesto che esprime tutto il ministero di Gesù, il gesto della frazione del pane. Ecco, la frazione del pane noi lo colleghiamo al colore rosso, il secondo colore fondamentale. Il rosso è il colore del sacrificio, del dono di sé, proprio quello che la frazione del pane intende esprimere. Ora, nel brano che abbiamo letto, cioè nei versetti dal 42 al 47, la frazione del pane viene menzionata due volte, all'inizio, dove si dice che erano perseveranti nell'insegnamento degli apostoli, nella comunione, nello spezzare il pane, eccolo qui, e nelle preghiere, e poi al versetto 46, dove ci dice che ogni giorno erano perseveranti insieme nel Tempio e spezzando il pane nelle case prendevano cibo con letizia e semplicità di cuore. Ecco, qui c'è un elemento particolare, ci viene detto che il gesto dello spezzare il pane, almeno nella narrazione di Luca, avviene katemeran, avviene ogni giorno, come se questa comunità trova ogni giorno il suo punto di riferimento nello spezzare il pane, in questo gesto. C'è come una continuità tra la contemplazione di Dio che avviene nel Tempio e il compimento di questa contemplazione in un gesto che esprime una logica ben precisa, che è il gesto di Gesù, il gesto dell'ultima cena. Un gesto che viene rinnovato quotidianamente, risaldando in questo modo non solo il legame tra i credenti e Dio, ma anche il legame tra i credenti e quelli che sono presenti in quel momento. Non per niente poi tutto prosegue nel pasto vero e proprio. Ecco, nel contesto del primo secolo, non dimentichiamolo, il pasto aveva una forte pregnanza. Condividere il pasto era uno stipulare, come stipulare un patto di forte coinvolgimento con l'altro. È evidente quindi che qui noi troviamo un elemento fondamentale. Del resto, provate a passare in rassegna tutti i quattro Vangeli. Tutti i quattro Vangeli pongono nella frazione del pane un'attenzione particolare. I Vangeli sinottici, cioè Matteo, Marco e Luca, portano tutti e tre il racconto della moltiplicazione dei pani e il momento dell'istituzione dell'Eucarestia nell'ultima cena, mostrando un profondo legame tra le due parti. Giovanni non avrà il racconto dell'istituzione, ma dedica un intero capitolo, il capitolo 6 del suo Vangelo, al discorso sul pane di vita e sostituisce l'istituzione dell'Eucarestia con la lavanda dei piedi, mostrando il profondo nesso tra i due elementi. Ma è evidente dalla narrazione dei quattro Vangeli che l'Eucarestia e la frazione del pane rappresenta per la comunità un elemento identitario. Tutto questo trova conferma anche negli scritti precedenti gli Atti degli Apostoli, e qua risaliamo ancora alle lettere di Paolo, dove notiamo che sovente, spesso, l'Apostolo si trova a dover intervenire nella comunità per rimettere ordine sul modo in cui viene vissuta la frazione del pane. Perché il rischio qual è? La comunità rischia costantemente di sfocare questo momento che è così centrale. Possiamo dire lo spirito nemico ci mette del suo, perché è ovvio che lo spirito nemico cerca di entrare all'interno della comunità e strappare dalla comunità gli elementi che la costruiscono, gli elementi che fanno da polo di riferimento, che danno calore, forma, colore alla comunità, quindi cerca di strappare l'Eucaristia. Ecco allora che Paolo è costretto a intervenire più volte per ribadire la centralità di questo momento. Ad esempio, a Corinto Paolo deve intervenire perché il pasto eucaristico, al posto di essere un motivo di comunione e condivisione tra i fratelli, è motivo di divisione. I ricchi, che ovviamente non avevano gli orari di lavoro dei poveri, finivano di lavorare molto prima e mandavano poi i poveri a finire i loro lavori, i ricchi giungono prima al momento della commensalità, della memoria, mangiano, bevono, si ubriacano, poi aspettano l'arrivo dei poveri che vengono per fare memoria dell'Eucaristia. Si trovano con gli altri che si sono già abbuffati, quindi restano a bocca asciutta, e quindi si crea non solo una discrepanza all'interno della comunità tra ricchi e poveri, ma anche un qualcosa di non corretto, perché alcuni che già hanno si abbuffano, mentre gli altri che non hanno niente restano con le briciole che gli altri hanno lasciato. Anche la lettera agli Ebrei è significativa da questo punto di vista, perché l'autore di questo scritto, probabilmente non è Paolo l'autore di questo scritto, interviene al capitolo 10 sottolineando e richiamando alcuni che hanno l'abitudine di disertare le riunioni della comunità, evidenziando in questo un altro punto di debolezza, e le riunioni della comunità sono in genere proprio quelli legati alla memoria eucaristica. Pensiamo anche alla lettera ai Galati. La lettera ai Galati attorno alla questione delle mense, della condivisione delle mense, c'è un incidente molto forte. Noi sappiamo che a un certo punto del suo percorso Paolo rompe con Barnaba e arriva ad un litigio molto forte con Pietro. Qual è la questione? È la questione quella delle mense eucaristiche, perché si sono create in Galazia due gruppi. C'è la mensa dei credenti che vengono dal giudaismo e la mensa dei credenti che vengono dal paganesimo. E i due si guardano con un certo sospetto. E allora Paolo interviene e dice no, non è possibile continuare con due mense eucaristiche. Il Cristo è uno solo. Bisogna riuscire a superare le differenze senza fare troppi sconti, senza arrivare a forme di compromesso. E Paolo su questo è molto deciso. E siccome non vede la medesima decisione né in Pietro né in Barnaba, rompe con loro e interviene con toni sempre più forti. Sempre l'Apostolo dichiarerà ai fedeli di Corinto che chi si presenta al momento della frazione del pane non può tenere il piede in due scarpe. Allora a coloro che sono abituati ad alcuni riti che sono legati anche a forme di prostituzione sacra nei templi pagani, li riprende con estrema durezza e dice: non potete unirvi a Cristo nel momento della frazione del pane e poi unirvi a una prostituta per pregare chissà quale Dio in un altro momento della vostra giornata. Teniamo presente che il contesto pagano del tempo prevedeva per coloro che venivano da idolatria forme di preghiera di questo tipo. Per unirsi alla tale divinità pagana ci si doveva unire ad alcuni sacerdoti che erano i prostituti sacri dei loro templi. Attraverso questa forma si pregava la divinità. Ma è ovvio che erano queste forme, come dire, di preghiera e di culto che avevano come finalità solo quella di raccogliere i fondi, i soldi di chi magari restava invischiato in queste forme di non solo di religiosità, ma di vera e propria dipendenza. Ecco, Paolo interviene in modo molto deciso su queste forme, dove in altre parole l'Eucaristia, il momento della frazione del pane, viene privato del suo significato. Ma così, per esemplificare ulteriormente quello che voglio dire, riprendiamo un attimo il discorso di Paolo in una delle sue lettere. Andiamo nella prima lettera ai Corinzi, capitolo 11, nei versetti dal 17 al 22, anche qua leggo solo un passaggio, ma è significativo. Paolo scrive, sta proprio parlando della frazione del pane: mentre vi do queste istruzioni, non posso lodarvi, perché vi riunite insieme non per il meglio, ma per il peggio. Innanzitutto sento dire che quando vi radunate in assemblea vi sono divisioni tra voi, e in parte lo credo. Sono gli stessi Corinti di prima, quelli che erano divisi in diverse comunità. È necessario infatti che sorgano fazioni tra di voi, perché in mezzo a voi si manifestino quelli che hanno superato la prova. Quando dunque vi radunate insieme, il vostro non è più un mangiare la cena del Signore. Ciascuno infatti quando siede a tavola comincia a prendere il proprio pasto, e così uno ha fame e l'altro è ubriaco. Ma non avete le vostre case per mangiare e per bere? O volete gettare il discredito sulla Chiesa di Dio e umiliare chi non ha niente? Che devo dirvi, lodarvi? In questo non vi lodo. Io infatti ho ricevuto dal Signore quello che a mia volta vi ho trasmesso. Il Signore Gesù, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane. E dopo aver reso grazie lo spezzò e disse: questo è il mio corpo che è per voi, fate questo in memoria di me. E così via, poi il discorso va avanti, tornando al centro, al pilastro praticamente della comunità cristiana, la frazione del pane come luogo in cui la comunità cristiana trova la sua identità. Quindi vedete, un punto problematico che constatiamo a Corinto, in Galazia, a coloro, alle comunità a cui si rivolge la lettera agli ebrei, un punto quindi di grande forza ma anche di grande debolezza nella comunità. Ecco che Luca, quando scrive, non fa altro che riproporre al centro dell'immagine ideale della comunità cristiana quello che lui ha respirato con Paolo. Paolo l'ha detto molto chiaramente: ciò che costruisce una comunità cristiana, accanto alla comunione, la coinonia, che significa attenzione a chi mi sta attorno, perché non si creino cristiani di serie A o di serie B, perché non ci si guardi dall'alto al basso in base a quello, al reddito pro capite di una persona. C'è l'altro elemento, l'elemento fondamentale della fratio panis, quel momento che costituisce, attorno al quale si costruisce l'identità cristiana, ma che rischia costantemente di essere sfocato dai fratelli. E arriviamo al terzo colore. Il giallo, abbiamo detto, porta al rosso della frazione del pane. La frazione del pane è inserita in un atto liturgico che ha come obiettivo quello della preghiera. E arriviamo al blu della preghiera. Il blu è un colore che fa respirare, che richiama gli orizzonti, che richiama la trasparenza, che innalza il cuore. Ecco, proprio quello che viene sintetizzato da Luca nell'espressione greca proseuche, cioè preghiera. Cosa ha in mente l'Evangelista quando afferma che tutti nella prima comunità cristiana partecipavano assiduamente alle preghiere? Noi andiamo subito con la testa o l'immaginazione alle preghiere di domanda, oppure a certe forme di preghiera recitativa che caratterizza una certa ritualità. Sembra però che sotto il termine proseuche si debba pensare a qualcosa d'altro. La prima manifestazione della proseuche cristiana è la benedizione e il ringraziamento. Se voi notate, provate a leggere anche una sola lettera dell'Apostolo Paolo, noterete che la maggioranza delle lettere di Paolo iniziano proprio con il ringraziamento. Quindi la prima forma di preghiera nella comunità cristiana è ringraziamento, che non significa altro che riconoscere l'azione di Dio dentro di noi e attorno a noi. Ringraziare permette al Signore già di rendersi presente nella nostra realtà, permette a noi di riconoscere le sue orme, di cogliere la realtà in un orizzonte nuovo, con una luce nuova. Chi non ringrazia rischia di vivere male le proprie giornate, di viverle con la luna storta, perché non riconosce fin dall'inizio l'azione di Dio in quelle giornate. Chi ringrazia invece si sente in compagnia del buon Dio, non si demoralizza di fronte alle difficoltà, perché sa di non essere solo. È forse per questo che la tradizione ebraica chiede all'ebreo osservante di pronunciare tutta una serie di berakot, cioè di benedizioni durante la giornata. E le benedizioni sono molte, quelle che il pio ebreo deve recitare durante la giornata, dal risveglio fino alla fine, dal momento in cui si sveglia e apre gli occhi e può benedire Dio per il dono della luce, per il dono di un giorno nuovo, fino al momento in cui chiude gli occhi e si riaffida nelle mani del Signore. Se volete, anche i diversi momenti della preghiera che la tradizione cristiana ha fissato nella cosiddetta liturgia delle ore, ha come obiettivo proprio questo, di accompagnare la giornata riconoscendo in essa l'azione di Dio. Accanto alla preghiera di benedizione, poi notiamo, c'è anche la preghiera di contemplazione, di adorazione e la preghiera di richiesta di perdono, che è intesa come esaltazione della misericordia di Dio. Ecco, anche questo è molto evidente nello scambio che unisce Paolo e i primi credenti. Menziono sempre Paolo perché Luca è il suo discepolo, quello che Luca racchiude nell'esperienza della Chiesa delle origini, lo notiamo che lui lo attinge dall'Apostolo Paolo e dai primi capitoli poi lo riversa sulla seconda parte degli Atti degli Apostoli, che è interamente dedicata a questo apostolo. Bene, nella lettera alla comunità di Efeso, al capitolo 6, Paolo ha delle espressioni molto belle, molto chiare sulla preghiera. Siamo al versetti 18-20 che stanno nella parte finale della lettera. Paolo chiude questa lettera dicendo: in ogni occasione pregate con ogni sorta di preghiere e di suppliche nello Spirito, e a questo scopo vegliate con ogni perseveranza e supplica per tutti i santi. E pregate anche per me, affinché quando apro la bocca mi sia data la parola per far conoscere con franchezza il mistero del Vangelo, per il quale sono ambasciatore in catene, affinché io possa annunciarlo con quel coraggio con il quale devo parlare. Ecco, è l'ultima esortazione che Paolo fa alla comunità, e non è un caso che l'ultima esortazione rivolta a questa comunità tocchi proprio il tema della preghiera. E notate con che enfasi. Basta anche solo il versetto 18 di questo capitolo 6. In ogni occasione pregate con ogni sorta di preghiere e suppliche, e a questo scopo vegliate con ogni perseveranza e supplica. Paolo sa molto bene l'elemento su cui la comunità deve vigilare, tanto più in un contesto di persecuzione. Paolo è in catene, però sa bene che le sue catene rischiano di non riguardare solo lui, ma rischiano di coinvolgere l'intera comunità. Quindi invita la comunità a sostenersi con questo terzo fondamento della comunità cristiana. Facciamo ancora un breve stacco musicale prima di toccare l'ultimo pilastro della comunità cristiana, quello che in qualche modo racchiude tutti gli altri tre colori. Allora, ci siamo soffermati su i primi tre colori che compongono il quadro della prima comunità cristiana: il giallo della comunione, della coinonia, il rosso della frazione del pane, la fractio panis, l'eucaristia, e il blu della preghiera. Ovviamente questi colori già bastano per comporre un quadro. Tuttavia, a volte, accanto a questi colori, per delineare ulteriormente le forme di un dipinto, sono necessari due colori che fanno un po' da sintesi di tutti gli altri: sono il bianco o il nero, sono quelli che permettono le pennellate finali. Ecco, attorno a questo colore noi possiamo raccogliere il tema della didache. È il quarto elemento molto importante nella comunità cristiana e viene identificato con l'insegnamento apostolico. È ciò che delinea le forme nel dipinto, ciò che scandisce il tratto. La didache ha a che fare con la verità, la tradizione. Non basta, in altre parole, venire alla fede. Non basta condividere gli elementi della fede, spezzare il pane facendo memoria della morte e risurrezione di Cristo. Ci vogliono dei punti di riferimento sicuri. E questi punti di riferimento sicuri, Luca tiene a sottolinearlo, vengono dal confronto con la tradizione apostolica, dall'insegnamento degli apostoli. Ecco, e qui dobbiamo stare attenti, perché la specificazione degli apostoli non è una specificazione secondaria. Luca, per la Chiesa a cui Luca si rivolge, è un elemento di fondamentale importanza. La Chiesa a cui Luca si rivolge rischia di lasciarsi abbindolare da alcuni sapientoni che sono arrivati in un secondo momento all'interno della comunità cristiana, che pensano di essere in grado di capire meglio loro di quanto gli apostoli hanno comunicato alla comunità, o dei responsabili che gli apostoli hanno messo come loro successori all'interno della comunità. Quindi lo spazio dell'ascolto, del confronto, dell'accoglienza umile di chi è posto a guida della comunità è importante in questa visione della prima comunità cristiana. E notiamo che anche su questo punto le comunità della prima ora, soprattutto del periodo che va tra il 50 e il 100 dopo Cristo, si trovano con non poche difficoltà. Le eresie che scoppieranno alla fine del primo secolo e che daranno filo da torcere all'interno della seconda generazione cristiana nascono proprio su queste basi e sono già denunciate fin dall'inizio nello scambio tra Paolo e le sue comunità. Leggiamo così a titolo esemplificativo un passaggio della lettera ai Filippesi, capitolo 4, versetti da 11, capitolo 4, versetti da 11 a 15, ma forse qui ho sbagliato, perché non sono i versetti da 11 a 15, deve essere un altro testo dove a un certo punto Paolo interviene con i fratelli della comunità e dice: state attenti ai falsi maestri che vengono all'interno della comunità e disorientano i credenti. Dovrebbe essere nella corrispondenza anche qui con i Corinti, nella seconda lettera, dove Paolo dice: questi sono dei falsi apostoli, sono dei pseudo apostoli, anche se vengono a voi vestiti da agnelli e fanno segni straordinari per convincere tutti voi a seguirli. State attenti perché questi vi portano fuori. E poi presenta i propri titoli di vanto e dice: l'insegnamento apostolico da dove passa? Passa nel momento in cui la persona di cui si fa portavoce, che si fa portavoce di questo messaggio, vive ciò che Cristo ha vissuto. Quindi il fatto di essere oltraggiati, il fatto di essere perseguitati, il fatto di non essere subito compresi, sono tutti segni non che screditano l'annuncio, ma che possono avvalorarlo, in quanto l'Apostolo rivive in se stesso il mistero che Cristo ha portato. Ecco, attorno a questo elemento, a questo quarto elemento, l'elemento della didache, è nata proprio anche uno dei testi più antichi del cristianesimo, dopo i testi neotestamentari, ed è appunto la didache dei dodici apostoli, un testo che racchiude gli elementi vitali attorno ai quali la prima comunità cristiana si sviluppa e cresce. E proprio questo testo prende le sue mosse, prende la sua origine dal brano su cui ci siamo voluti soffermare questa sera, vale a dire il brano che è contenuto in questi versetti 42 e 47 degli Atti degli Apostoli. Ecco, la sintesi di questo testo, come vi dicevo, è già racchiusa nel primo versetto, è il primo versetto, il versetto 42, quello che mette in evidenza bene questi quattro pilastri, questi quattro colori, quando dice che erano perseveranti nell'insegnamento degli apostoli, nella comunione, nello spezzare il pane e nella preghiera. Ecco, ai quattro colori, il giallo della coinonia, il rosso della fratio panis, il blu della preghiera, il nero, il bianco della didache, dobbiamo aggiungere la nota di fondo, la cornice di questo quadro, e la cornice di questo quadro è la perseveranza, ciò che il Signore chiede quando ci consegna questi quattro pilastri è di rimanere quotidianamente legati ad essi, perché solo la perseveranza permette di ottenere il frutto e permette in qualche modo alla comunità di costruirsi solida. Ciò che vale per la comunità vale anche per la vita dei singoli. Solo rimanendo in questo solco riusciamo ad essere veramente membra vive e operanti della Chiesa, quelle pietre vive che costruiscono l'edificio santo di Dio. Mi fermo qui, cari ascoltatori, ed ora entriamo nella seconda parte della nostra conversazione. Come vi dico sempre, la seconda parte della nostra conversazione è altrettanto importante rispetto alla prima, no? è la parte dove voi diventate protagonisti con le vostre considerazioni, le vostre domande, i vostri spunti. Quindi vi invito a intervenire anche questa sera facendo le domande che questa riflessione ha suscitato dentro di voi, rimanendo possibilmente sul tema che abbiamo trattato. Questo dà modo anche agli altri ascoltatori di continuare ad approfondire gli spunti che ci siamo dati e di fare quindi un passo in avanti nella nostra riflessione sugli Atti degli Apostoli. Lasciamo lo stacco musicale in cui vi saranno date le coordinate per chiamare e poi resto in attesa delle vostre chiamate. Buonasera Don Giacomo, mi chiamo Stefano e chiamo dalla provincia di Como. Volevo chiederle una cosa che mi sta molto a cuore. Come si può allenare la perseveranza? Perché mi capita di ricadere spesso sui miei difetti di carattere. La ringrazio, l'ascolto per radio. Buonasera. Certo. Allora, caro Stefano, hai posto una domanda importante. Come si può allenare la perseveranza? Ecco, io penso che uno dei criteri, ce ne possono essere altri, però uno dei criteri che possono aiutare nella perseveranza è la comunione, cioè la coinonia, la comunione intesa come coinonia, cioè è la condivisione con qualcun altro. Il fatto di non fare il cammino da soli a volte è uno stimolo vicendevole, perché è un po' normale, un po' fisiologico, no? nel nostro camminare, il fatto che ci sono alcuni momenti in cui uno, per le ragioni più diverse di questo mondo, a volte anche per stanchezza fisica, per un periodo di bassa, si sente un pochino più stanco. Ecco, in quel momento, se uno ha, se uno condivide il proprio percorso di fede, agli altri che lo sostengono, all'altro che lo sostiene. Ecco perché i maestri dello spirito sottolineavano sempre l'importanza di avere un punto di riferimento, una guida spirituale. Perché? Perché la guida spirituale è, l'occasione di tenere vivo il nostro impegno da un lato e nello stesso tempo l'occasione di incontrare qualcuno che in nome di Dio ridà slancio, ridà forza al nostro cammino, stimolandolo, provocandolo. È proprio per questo che vengono posti accanto al credente gli strumenti del direttore spirituale, strumenti di momenti di riflessione nella giornata, nel mese, nell'anno. Pensiamo anche all'esperienza degli esercizi spirituali. Adesso, grazie a Dio, molte parrocchie vivono l'esperienza degli esercizi spirituali parrocchiali, dove, se sono ben condotti, non è solo un'occasione per andare a ascoltare qualcuno che parla, ma è un'occasione per riflettere sul proprio cammino e ridare slancio al proprio cammino, riponendo al centro il Cristo. Quindi vedi come questi quattro pilastri della vita cristiana servono proprio anche come risposta al nostro cammino personale. Grazie Stefano per questa domanda, perché penso che molti altri ascoltatori si pongono questo quesito e sottolineare l'importanza della condivisione penso sia prezioso. Grazie. Pronto? Pronto? Buonasera padre, sono Massimo, chiamo da Napoli. Mi dica Massimo. Sì, padre, io volevo fare una domanda appunto su questa riflessione fatta fra gli scritti di San Luca, Atti degli Apostoli, e il riferimento sullo stile letterario di San Paolo. Io mi sono sempre posto questa perplessità, questa domanda, e leggendo un po' le lettere di San Paolo nel suo insieme, a parte l'insegnamento catechistico della sua esperienza, ma è giusto pensare, forse è lo stile di scrittura, però si percepisce una certa presunzione, tra virgolette, del suo mandato rispetto agli altri apostoli, della sua esperienza ricevuta con Gesù Cristo, non di persona ma in spirito. E se questo è giusto pensare, come dire, come forma di scrittura, e che non ci sia nulla di presuntuoso rispetto agli altri apostoli, e viceversa anche per Luca mi hanno insegnato sempre che diciamo per le comunità che lui ha scritto utilizza certe volte delle forme un po' troppo culturali rispetto ad esempio a Matteo, che è un po' più diretto, che scrive per le comunità ebraiche. Non so se la mia domanda è stata chiara e se può ricevere risposta. Certo, grazie Massimo di questa domanda. Allora, prima di tutto parto da un elemento di fondo, dall'elemento di partenza della conversazione di questa sera. Ho iniziato dicendo, noi ci basiamo, questa sera riflettiamo su 5 versetti, 2, 42 e 47, capitolo 2, versetti 42 e 47, dove Luca ci presenta il quadro ideale delle origini, ma ho subito precisato, questo quadro ideale delle origini non è quello che Luca sta vivendo, c'è uno scarto tra quello che Luca sta vivendo e il quadro che lui presenta, e non a caso sottolinea questi fondamenti per dire alla sua realtà, che è una realtà che vive un po' il dramma della divisione, della fatica, dove trova i suoi punti di riferimento. La stessa cosa la fa Paolo quando scrive le sue lettere. Paolo non scrive le lettere per mandare solo i saluti da una villeggiatura ai suoi credenti, scrive le lettere perché deve ravvivare le comunità su alcuni punti in cui vengono meno. In che cosa si differenzia lo stile di Luca dal modo di scrivere di Paolo? Si differenzia nel genere letterario. Che cos'è il genere letterario? È il modo in cui uno racconta le cose. Un conto è se io faccio una narrazione ordinata, questo era l'obiettivo di Luca quando ha scritto il Vangelo e quando ha scritto gli Atti degli Apostoli, suo obiettivo è raccogliere una serie di documenti, una serie di testimonianze di vita, questo tiene a evidenziarlo, mettere ordine tra quelle e dare un resoconto ordinato ad ogni persona che si considera amata da Dio, il famoso Teofilo. Quindi a queste persone che si considerano amate da Dio, lui consegna un racconto ordinato, quindi il suo è un racconto. Paolo invece non scrive racconti, Paolo scrive lettere, in alcuni casi più che una lettera magari un'omelia, però è un genere letterario diverso, quindi se il racconto ovviamente ha l'impronta di chi scrive, ma magari lo scrittore si mette più indietro perché raccoglie le esperienze altrui, nella lettera no, nella lettera la persona che scrive tiene a evidenziare che è lui che scrive. Attraverso le emozioni che traspaiono dalle lettere, provate a leggere la seconda lettera a Corinzi, trovate tutte le emozioni di Paolo, un Paolo che si arrabbia, un Paolo che piange, un Paolo che si emoziona, un Paolo che si commuove, tutti gli elementi, un Paolo che prova compassione, più presente di così sarebbe difficile. Non solo da un punto di vista emotivo, ma anche dal punto di vista della scrittura. In alcuni casi Paolo non era abile nello scrivere, sapeva scrivere, ma non era abile nello scrivere, per cui si serviva di uno scrivano, di un segretario, che era uno dei suoi collaboratori, ma in alcuni casi termina la lettera dicendo, adesso scrivo di mio pugno, vedete con che grossi caratteri vi scrivo, cioè era un'altra grafia la sua, abbastanza poderosa probabilmente nello stile della grafia. Perché interviene di primo? Perché vuol far sentire la sua presenza. Questo invece non succede nel Vangelo e negli Atti degli Apostoli, dove Luca si rende sì presente, però in modo discreto, perché vuole portare la testimonianza di altri. Quindi nella diversità incide la differenza di genere letterario. Non solo, incide anche una terza cosa, incidono i destinatari. Giustamente Massimo diceva, Luca scrive in uno stile più acculturato, cioè diverso, più magari ricercato rispetto a un Matteo o a un Marco. Perché? Ma perché Luca viene da una formazione diversa e si rivolge a destinatari diversi. Gli interlocutori di Luca sono probabilmente i credenti che provengono dal paganesimo. I credenti che hanno anche una certa formazione culturale, quelli a cui si rivolge Matteo sono i credenti che provengono dal giudaismo, per cui il suo linguaggio, essendo lui stesso di provenienza giudaica, è molto intriso del linguaggio tipico del giudaismo del primo secolo, cosa che non troviamo in Luca. Per contro Luca è considerato un pessimo studente di geografia, perché se andiamo a verificare tutti i dati geografici che sono racchiusi nel Vangelo di Luca, notiamo che Luca proprio ne sbaglia la metà, probabilmente perché non è mai stato in quei luoghi di cui ci sta narrando, ha solo raccolto testimonianze. Matteo invece non sbaglia proprio di minimamente, dove si trova un punto, dove si vede che è un originario del luogo. Insomma, ognuno porta dentro di sé la propria personalità e questa personalità emerge o si defila in base anche al genere letterario che viene utilizzato. Tutto questo torna a servizio del Vangelo. Grazie a Dio noi abbiamo quattro testimonianze diverse, quattro Vangeli diversi, perché da quattro prospettive possiamo cogliere quell'unico mistero e quei fondamenti su cui stasera abbiamo cercato di soffermarci. Grazie quindi Massimo che da Napoli anche tu hai arricchito la nostra conversazione. Pronto? Pronto? Pronto, con chi parlo? Don Giacomo, no, io chiamo da Figueirense in Sicilia, nella provincia di Catania. No, io ho ascoltato, diciamo, la sua lezione, è stata meravigliosa, complimenti. Solo che io, leggendo gli Atti degli Apostoli, in una parte, ad esempio, dove c'è Pietro che dice di dare, diciamo, quello che uno ha per il prossimo, no? E c'è stato diciamo, il racconto di quei due marito e moglie che hanno venduto, però il denaro che hanno messo a disposizione non l'hanno dato tutto e non so, e sia l'uno che l'altro sono morti perché non hanno detto la verità. Cioè, a me mi sembra una cosa come se il cristianesimo deve essere, cioè la beneficenza deve essere una cosa forzata e tutta, cioè, mi potrebbe dare una delucidazione su questo fatto? Certo, gliela do volentieri. Ovviamente di fronte al tema della coinonia viene spontanea la domanda su quello che è successo ad Anania e Saffira, ed è proprio la domanda che il nostro ascoltatore ci ha fatto. Anania e Saffira, all'inizio proprio della prima comunità cristiana, vivono questa esperienza, cioè loro condividono qualcosa delle loro proprietà, però trattengono qualcosa d'altro, e quando Pietro scopre l'inganno dà una sorta di maledizione, non è di per sé una vera e propria maledizione, però usa delle parole molto dure, prima nei confronti di uno e poi nei confronti dell'altro, e questi due muoiono sul colpo. Infarto immediato a tutti e due, uno prima e uno dopo, prima il marito poi la moglie, e questa cosa lascia disorientati. Del resto, se voi andate a vedere la finale di quel racconto, il racconto si conclude al versetto 11 del capitolo 5 dicendo: un grande timore si diffuse in tutta la chiesa e in tutti quelli che venivano a sapere queste cose. Quindi non il timore che proviamo noi l'avevano già provato loro. Perché succede questo? Perché Luca, che è così un narratore attento, a un certo punto della narrazione mette la scena di Anania e Saffira. E qua la risposta non è facile, però spero di rendere l'idea. Luca immagina la comunità cristiana come una sorta di nuova creazione. La comunità inaugurata da Cristo con la risurrezione apre un'era nuova nella storia, e questa era nuova è come una nuova creazione, dove i credenti sono coloro che rendono vivo il paradiso con tutti gli elementi che caratterizzano il paradiso, quindi questa uguaglianza e serenità dove nessuno si sente povero, nessuno è indigente, attraverso questi quattro pilastri, quindi la comunione, la frazione del pane, la preghiera e l'insegnamento degli apostoli. Come nella creazione c'era stato il peccato delle origini, quello di Adamo ed Eva, che aveva portato la morte nella creazione, perché la morte si è espressa nella nudità dei due progenitori, quindi di Adamo ed Eva, e con la cacciata del paradiso. Ora la stessa cosa si verifica nella comunità cristiana. Il peccato contro la coinonia è paragonato da Luca nel racconto al peccato delle origini, quindi alla stessa gravità. Nella comunità delle origini l'elemento distintivo di questa comunità è la coinonia. Attentare alla coinonia significa commettere un peccato che ha lo stesso peso del peccato delle origini. Ecco allora la descrizione di Anania e Saffira. Se voi andate a vedere quel capitolo 4 e 5, notate che prima viene presentato un modello positivo, Barnaba, subito dopo un modello negativo di questa coinonia, Anania e Saffira, e non a caso sono una coppia. Questa coppia riprende gli stessi elementi proprio là dove li avevamo visti in Adamo ed Eva, e la coppia che è l'emblema di per sé della coinonia è quella che in questo momento la tradisce, perché tengono qualcosa per sé. Ora arriviamo a noi, per rispondere anche a un'affermazione che il nostro amico siciliano ha fatto. Quando gli Atti degli Apostoli raccontano queste cose, guardate che non stanno parlando della beneficenza. Quello che qua viene affrontato non è la questione della beneficenza a cui siamo chiamati per strada o fuori dalle porte della Chiesa. È qualcosa di molto più profondo, molto più radicale. Luca qua sta affrontando proprio il tema della uguaglianza tra credenti, sta sottolineando in una società che è stratificata dalle classi sociali, che in Cristo non c'è uno di serie A e uno di serie B, tutti hanno la stessa dignità, e se tutti hanno la stessa dignità dobbiamo avere cura gli uni degli altri, non è possibile che alcuni abbiano molto e altri abbiano poco. Il cristianesimo diventa in tal senso una rivoluzione non solo nella società a cui Luca scrive, l'impero romano, dove c'era una profonda differenza sociale tra chi aveva e chi non aveva, ma diventa una rivoluzione anche per il contesto contemporaneo. Per il contesto contemporaneo, i cristiani dovrebbero innescare continuamente una rivoluzione da questo punto di vista. E fateci caso, dov'è che nascono quelle forme alternative di gestione mondiale dell'economia se non in ambiti paradossalmente, significativamente cristiani? Chi porta avanti l'economia di comunione? Nasce questo concetto all'interno del mondo dei focolari, dei focolarini, e da lì si è pian piano sviluppato, proponendo nel tessuto della società attuale forme etiche di gestione del denaro e di gestione anche della ricchezza. Pensate anche ai grandi temi attorno ai quali si snoderà l'Expo del 2015, non è solo il creato, c'è anche tutto il tema dell'economia, di un'equità all'interno della gestione del denaro. E che cos'è oggi che ha mandato anche in profondo default, in crisi la nostra società? È una gestione errata del denaro, che è in mano a pochi, mentre tutti gli altri si trovano a dover tirare la cinghia. Purtroppo su questi temi non c'è, come dire, una coscienza a largo raggio. Ora, torniamo agli Atti degli Apostoli. Gli Atti degli Apostoli ci dicono fin dall'inizio dove sono i fondamenti e quali sono i punti deboli su cui si regge, i punti forti e i punti deboli su cui si regge la comunità delle origini. Ecco, non dico che negli Atti degli Apostoli c'è tutte le risposte ai problemi di oggi, però erano già affrontati, cioè i nodi principali erano già evidenziati lì. E anche quei punti su cui i credenti dovevano fare attenzione. Quindi è una questione decisamente più grande rispetto al semplice fare beneficenza. Anche se già il modo in cui noi facciamo beneficenza dice il modo in cui noi siamo attenti alla coinonia. Faccio un suggerimento, una volta era stato dato a me e ogni tanto cerco di viverlo, perché vedo che lì c'è una svolta, no? Ogni tanto al posto di dare un euro a chi sta fuori dalla porta della chiesa e chiede l'elemosina, ma andate a bere un caffè con lui, gli offrite un caffè, e questo ridà dignità a quella persona. Perché se voi gli date l'euro, gli arricchite di un euro, ma non gli date dignità, perché quello si sentirà sempre un accattone, a meno che non lo faccia di professione, perché bisogna stare attenti anche a questo. Se voi invece gli pagate il caffè, quella persona si sente trattata da persona, con cui uno scambia due parole, con cui uno non ha vergogna di farsi vedere a prendere un caffè, con cui uno ha uno spazio di tempo da dedicare. E quello ha valore di un euro, ha valore molto di più, perché ridà forza, vita, dignità a quella persona. Grazie al nostro amico della Sicilia, perché come vedete dal brano, da questi 5-6 versetti, molti temi possono essere toccati. Pronto? Pronto? Buonasera. Buonasera, sono Maria Teresa e mi chiamo da Cagliari. E volevo, grazie per tutto quello che ci insegna e che ci fa comprendere veramente che siamo così fortunati di essere, sentirci essere figli di Dio. Volevo dirle, la preghiera per me è molto importante, io sono lì tutto il giorno, come in ogni momento, in qualche difficoltà, sia nelle cose belle che nelle cose brutte. Io riesco a rivolgere il mio pensiero a Gesù, a pregare. Ora, però mi capita molto spesso che mi distraggo, la mia mente, io dico la mia mente va per i campi, non lo so, e devo ricominciare da capo. Come posso fare per essere più attenta, distrarmi meno, non lo so, è un qualcosa mio personale o c'è un modo che lei mi può insegnare, anche per dirlo ai miei ragazzi del catechismo, insegnare anche loro come fare a pregare. La ringrazio, signora Maria, per questa sua domanda, no? Uno degli elementi che disturba la preghiera o che viene considerato come un disturbo della preghiera sono le distrazioni. Pensate che i primi padri della Chiesa, quando invitavano alla lezione orante della parola di Dio, alcuni iniziano dicendo: prima cosa da fare dovete cacciare tutte le mosche che stanno non attorno a voi ma dentro di voi, e le mosche sono queste sorte di distrazioni, no? Che ogni tanto così abitano la preghiera. Da cosa dipendono? La prima domanda che dobbiamo farci è: da cosa dipendono le distrazioni? Se dipendono dalla stanchezza della persona, allora magari è meglio presentare questa stanchezza al Signore, riposare un attimo e poi tornare da Lui. Il Signore benedice anche il nostro riposo in alcuni momenti. Altre volte invece le distrazioni possono venire dalla preoccupazione. E allora la strategia migliore è partire dalla distrazione, prenderla e portarla dentro la nostra preghiera. Se qualcuno ad esempio sta pregando e sa di avere il padre, il figlio preoccupati per qualcosa, perché per diverse ragioni, o perché c'è una malattia di mezzo, perché c'è un esame che stanno facendo, la cosa migliore è prendere la distrazione e portarla davanti al Signore. La distrazione può venire anche dall'abitudine, Per cui quando noi recitiamo alcune preghiere che sono caratterizzate da formule di preghiera, pensate ad esempio alla coroncina della Divina Misericordia o allo stesso Santo Rosario, il rischio qual è? L'abitudine mi fa sganciare dal rapporto con Dio, e nel momento in cui io scancio la spina entrano tutte le distrazioni possibili. Allora lì bisogna trovare il modo per, come dire, rendere questa preghiera un rapporto autentico con Dio. Ad esempio nella recita del rosario sono state proposte le formule più diverse. Alcuni suggeriscono al termine della prima metà dell'Ave Maria di personalizzare la parola a Gesù con un giaculatore che magari uno sente particolarmente cara a sé, in modo da personalizzare la recita dell'Ave Maria. Altri suggeriscono altre modalità. Insomma, di fronte alla distrazione, le distrazioni, la cosa migliore è capire da dove provengono le distrazioni. Alcuni a volte mi dicono durante così i confronti, i colloqui la domenica, negli scambi della confessione, no? Che quando pregano, quando dicono il rosario, pensano sempre a quello che devono cucinare. E allora dico, ma quando è che lei dice il rosario? No, io dico il rosario, lo sento alla radio e intanto cucino. È ovvio che se uno cerca di fare due o tre cose contemporanee, il rischio delle distrazioni è più alto, per cui al posto di pregare l'Ave Maria si pensa alla quantità di aglio da mettere e di cipolla da mettere sulla bistecca. Per cui la preghiera richiede anche un certo raccoglimento. Questo non significa che la qualità della nostra preghiera debba essere uguale in tutto il momento della giornata. Il momento della giornata può trasformarsi di preghiera grazie al richiamare la presenza di Dio durante la nostra giornata. A volte basta un grazie Signore per l'incontro con questa persona, un chiedersi ma cosa mi volevi dire attraverso questo momento di tensione che io ho avuto, oppure una richiesta di perdono perché ci si è accorti che abbiamo perso la pazienza, cioè trasformare gli eventi, i momenti della giornata come luoghi in cui il Signore passa e cercare di stabilire il contatto con Lui. E allora, quando si riesce ad arrivare a questo, allora le distrazioni pian piano si allontanano. Però non illudiamoci, le distrazioni ci accompagneranno sempre nella nostra vita, da adesso fino alla fine. L'importante è come dire, non darla vinta alle distrazioni. Il Signore è sempre più forte delle distrazioni. Se noi coltiviamo un autentico rapporto di bene, di affetto con Lui e non lasciamo che l'abitudine e la ritualità chiudano il nostro Signore in un quadretto devozionale. Grazie Maria per questa sua domanda. Pronto? Con chi parlo? Sì, mi dica. Mi dica, io signora. Sono io. Ok. Mi dica. Ok, adesso sono io. Ok, io sono brasiliana, cercherò di spiegarmi e fare la domanda. Allora è così, è da poco che sono cattolica, sono convertita lì a Medjugorje, ho ricevuto i sacramenti in Brasile, no? Allora, una cosa che vedo dentro la Chiesa, io non vorrei fare un giudizio, ma vorrei fare veramente una domanda della realtà che vedo, no? Un giorno ho sentito un parroco dicendo così, bene, siamo cattolici, veniamo alla messa, facciamo la nostra parte, però chi sta vestendo il Gesù, dando da mangiare a Gesù, facendo per il prossimo, la massoneria, gli spiriti, quelli che praticano Allan Kardec, gli spiriti, no? E poi quando sono venuta qui in Italia, io ho visto tante persone, un'altra realtà, di persone che seguono Maria, e quando dico di andare alla messa, la maggior parte dice così, ma io credo a Maria, prego a casa e non vado alla messa, no? La cosa che ho osservato in due casi diversi, no, che ho osservato, è che la gente di solito usa i sacramenti della Chiesa, no? Nel senso, battezza i figli, porta a fare la comunione, porta al matrimonio e dopo non vengono più. Beh, io volevo sapere come la Chiesa vede tutte queste cose, perché siccome sono nuova, io amo l'Apostolo Paolo perché è tremendo essere un giudeo che non credeva in Gesù, dopo che è passato a credere in Gesù, evangelizzare i propri pagani deve essere una cosa molto difficile, no? E quindi quando vedo queste cose così, sento, io volevo sapere come la Chiesa vede, cosa possiamo fare tutti noi. Grazie, grazie del suo intervento, perché effettivamente lei fa un po' una fotografia di alcuni limiti che a volte possono caratterizzare anche le nostre comunità cristiane. Vede, quando Luca negli Atti degli Apostoli delinea questi quattro fondamenti della vita cristiana, sottolinea che questi quattro fondamenti devono camminare insieme, devono essere presenti tutti e quattro. Quando uno viene a mancare, si creano quelle, come dire, disfunzioni che lei ha messo in evidenza. Prendiamo ad esempio l'assenza dell'insegnamento, l'assenza della didache, della didache degli apostoli. Rischia di far nascere, di far vivere la fede a proprio uso e consumo, per cui uno dice, ma sì, ma io sono tanto impegnato in quella onlus, mi dedico ai poveri nella mensa parrocchiale, parlo con nella mia preghiera personale, mi confesso a tu per tu con Dio, ma perché devo andare a messa la domenica? Cosa serve? Non basta essere cristiani così? Il rischio è proprio questo, cioè quando di costruirsi una propria identità cristiana così su misura, dimenticando che tutti e quattro gli elementi devono camminare insieme. Nella celebrazione della domenica, non a caso, noi abbiamo tutti e quattro questi elementi insieme, è un po' come il cuore, dal cuore, nel cuore di una persona noi abbiamo tutti gli elementi che permettono al suo fisico di vivere, così nella celebrazione della domenica noi abbiamo l'elemento della condivisione, perché è una comunità che celebra, anche se magari a volte non si respira quel clima della comunità, però l'espressione dell'essere attorno alla stessa mensa dovrebbe portare a quello, quindi c'è l'elemento della coinonia, c'è l'elemento della frazione del pane che ci riporta al mistero di Cristo, che ci ricorda che la nostra vita deve essere su misura sua, fino al sacrificio di sé, fino al dono di sé, c'è la preghiera che caratterizza diversi momenti, c'è una preghiera di ringraziamento, una preghiera di intercessione, la preghiera di richiesta di perdono, ci sono un po' tutte le sfumature della preghiera, e c'è l'insegnamento che è dato dall'ascolto della parola di Dio e dall'ascolto del commento di questa parola. Ecco, lì noi abbiamo in nuce, in nucleo, tutto quello che può costruire l'individuo, ciò che costruisce l'identità cristiana. Ecco, una comunità che cammina secondo questi principi è una comunità che non solo sa crescere, ma anche sa cogliere i punti deboli che possono diffondersi attorno a sé in certi credenti, e nelle modalità più corrette, più discrete, più attenti alla persona, sanno anche aiutare queste persone ad aprire gli occhi e a stare attente da come dire, alcune forme scorrette di vivere il cristianesimo. Scorrette non perché si fa del male in sé, ma perché sono rischiano di trasformare la fede, che è un dono che viene dall'altro, in qualcosa che uno si costruisce a propria unità e misura, a proprio uso e consumo. E questo è un rischio a cui tutti, fedeli, sacerdoti, religiosi, laici, tutti devono fare attenzione, perché tutti rischiamo di costruirci una fede a proprio uso e consumo. Grazie alla nostra amica dal Brasile che ha toccato anch'essa un punto delicato. Pronto? Pronto, con chi parlo? Io sono Eolo dalla Sicilia. Volevo dire questo, che in sostanza per quanto riguarda la mia vita cristiana posso dire che Medjugorje ha rappresentato per me una svolta, cioè io posso dire di me prima e dopo Medjugorje, come noi diciamo prima e dopo Cristo, cioè in questa storia di fede Medjugorje è una luce, una sorgente, un punto di riferimento. Poi apprezzavo la sua riflessione anche in ordine alle persone da sostenere, così come capita a Cattoni, ma più che altro io quando mi accosto a queste persone penso di incontrare delle persone giuste per me. E perché? Cosa dico a queste persone, oltre a dare l'offerta? Mi intrattengo e dico: voi siete parenti stretti di Gesù. Ma come? No, perché Gesù era poverissimo e voi siete parenti stretti, come lo fu San Francesco. E allora io a queste persone chiedo di pregare per me. E allora mi sento anche più forte della preghiera, ecco, che affido a queste persone. È un modo per realizzare la fraternità tra di noi. Grazie. Grazie per questa testimonianza. Ecco, le ultime due testimonianze di questi interventi erano tutte e due in qualche modo legate alla presenza di Maria a Medjugorje, ed è bello vedere, no, come anche chi fa un percorso autentico con Maria alla fine riesce a vivere in modo come dire più convinto, più trasparente anche la propria vita cristiana, diventando capace di attenzione all'altro. È quello che vedremo nelle prossime nostre conversazioni sugli Atti degli Apostoli. Quello che i dodici avranno sempre a cuore è l'attenzione all'altro, e attorno all'attenzione all'altro e ai problemi degli altri a volte ci sono anche dei momenti critici nella comunità, però avvengono dei veri e propri passi in avanti. Pensiamo anche solo al capitolo 6, quando di fronte alla crescita del numero dei discepoli della prima ora e ai bisogni delle classi più povere, la comunità si riunisce per dire: noi non riusciamo più a garantire la dignità di tutti, ci sono alcune persone che vengono lasciate da parte e questo crea malumore. C'è bisogno quindi di altre persone che si uniscano ai dodici e servano i poveri nella comunità. E lì sarà l'occasione per istituire i famosi sette che dovrebbero di per sé occuparsi della carità all'interno della comunità, ma a cui Dio affiderà poi anche la didache, l'insegnamento, per dire che sono un tutt'uno, non possono fare solo la fractio panis, devono anche insegnare, e grazie al loro insegnamento la Chiesa si aprirà a tutti quegli orizzonti, i samaritani, i lontani, i pagani, che a Gerusalemme non sarebbe stato possibile accogliere, perché c'era un'altra visione di Chiesa. Quindi notiamo come il cammino della comunità, con particolare attenzione all'altro e a quello che l'altro significa, è ciò che fa fare alla comunità i suoi passi. Allora, cari ascoltatori, un grazie di cuore a tutti voi, soprattutto a quanti sono intervenuti nella nostra conversazione, a Stefano da Como, a Massimo da Napoli, al nostro amico della Sicilia, a Maria da Cagliari, all'amica del Brasile, a Eolo dalla Sicilia, che è intervenuto con l'ultima considerazione. Ogni vostro apporto, come vedete, ha arricchito quanto ci siamo detti. Affidiamoci vicendevolmente al Signore e a sua madre, perché continuino ad accompagnarci nel nostro cammino. A tutti una benedizione e un saluto. Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.